reportage. Lux compie 10 anni. I volti d'Europa sul grande schermo, di Marta Cagnola. Torna il premio Lux, il premio cinematografico che racconta l'Europa del cinema. Nei prossimi giorni verrà proclamato il vincitore, deciso da una giuria d'eccezione, quella dei membri del Parlamento europeo. 3 film finalisti per un premio che festeggia i volti del cinema europeo. La presidente della Commissione per la Cultura, Silvia Costa. L'anno prossimo compiamo 10 anni, questa è già una cosa, è una notizia. È una, pensate che già 70 film, i 10 finalisti di ogni sezione, sono stati promossi da questo premio, nato un po' in sordina ma che sta crescendo a vista d'occhio. La cosa interessante è che quest'anno i 3 finalisti che sono stati selezionati da questa giuria indipendente europea e che vengono presentati ogni anno ormai da 7 anni a Venezia, la cosa importante è che il Festival di Venezia dà un'ospitalità piena anche con le proiezioni che avvengono dentro il programma di Venezia, questa è una grande cosa. Sono dunque i finalisti. 3 opere prime di 4 giovani registi promettenti che trattano di problematiche che toccano da vicino la società europea. Immigrazione, istruzione e l'uguaglianza di genere. Il primo dei 3 film è di un giovane italo-americano, Jonas Carpignano, e si intitola Mediterranea. È così al tuo paese? Non è così, ma più o meno così. Ti piace il tuo paese? Sì. E che cos'è la cosa che ti piace di più? Mia figlia. Basta dire il titolo, qual è il tema, e quindi il tema delle migrazioni, che ormai ha bisogno anche per noi politici di avere uno sguardo e un'interpretazione di sensibilità e di diciamo capacità di raccontare, no? C'è proprio una narrativa della migrazione che è importante, è significato molto più alcune foto simboliche e tragiche, è triste dirlo ma è così, rispetto a un'opinione pubblica che era anche in Italia molto distratta purtroppo anche dai media solo sulle affermazioni di populisti e demagoghi o altro, e non coglieva la spontanea invece movimento che c'era, però era molto così underground, di tantissime centinaia di persone, migliaia di persone nella sostegno e nell'aiuto. Seconda film è Mustang. Sappi che io amo i Kin, nonna, e se pensi di farmi sposare con qualcun altro mi metto a urlare. Non ci provare. Film della Deniz Gazi Erguven, spero si pronunci proprio così, che è questa giovane regista turca, e questa è su una storia appunto di una giovane donna turca e le sue, in una società piena di contraddizioni. E poi c'è questo Urok, che vuol dire la lezione, che è un film bulgaro. Жалко, някой от вас току-що пропиля шанса да поправи грешката си. Какво става тук? Всичко чето ще не вземат къста. Ние сме с малко дете, не можете да ни изхвалите просто така от утре на улицата. Interessante che i registi sono un uomo e una donna bulgari che lavorano spesso insieme. È è un film low cost, perché all'ultimo momento non hanno avuto più i soldi del governo e quindi hanno dovuto fare un film lo stesso, si sono impegnati a fare lo stesso, e però hanno già avuto degli importanti riconoscimenti non solo nel loro paese, anche altrove. La cosa interessante è che si tratta di 3 opere prime. Lo spirito del Lux? Lo chiediamo sempre a Silvia Costa. Il premio Lux si propone 2 cose. Da un lato quello di investire e di valorizzare la fotografia e la diversità culturale europea. Quest'anno sono i 10 anni della Convenzione UNESCO sulla diversità culturale, ma anche il dialogo interculturale, di promuovere soprattutto le piccole cinematografie che possono essere conosciute. E infatti il premio non è in denaro, ma è molto più prezioso, perché avranno i 3 finalisti la possibilità di essere tradotti in 24 lingue ufficiali europee, e quindi di circolare in Europa e fuori dall'Europa, ma soprattutto con le sottotitolazioni. Questo per esempio ha fatto conoscere in altri paesi europei cinematografie piccole, come non so, la Slovacca, che ha vinto un anno, eccetera. Interessante anche il fatto che gli italiani abbiano vinto una volta con Andrea Segre, con Io sono lì, che ogni volta, ormai negli ultimi anni, un italiano è in finale, e l'anno scorso era l'Agolino, quindi questo è un segno anche importante della nostra cinematografia. E l'ultima cosa è che questa misura di sottotitolazione dei film, e io l'ho fatta inserire anche in Europa Creativa, di cui sono stata relatore, come una delle misure del programma Media. La politica, le istituzioni, bisogna come il pane del dello sguardo, della capacità di interpretare il proprio tempo e di guardare anche oltre, della cinematografia. Quello che non possono dire spesso le nostre parole lo può dire il linguaggio cinematografico, quindi c'è una responsabilità precisa della cultura in questo momento. Cinema è un linguaggio che abbatte tutte le barriere, lo dichiara anche una delle sostenitrici del Lux, l'europarlamentare Cécile Kyenge. Io faccio parte della Commissione Cultura al Parlamento Europeo, ma anche di un'altra che si occupa di immigrazione. E mi sto concentrando molto perché sono relatrice di un dossier che porta avanti l'emergenza immigrazione e asilo, cioè soprattutto l'emergenza nel Mediterraneo, quindi quello che noi, il dramma che stiamo vivendo adesso. Però avevo associato a tutto questo un metodo di lavoro un po' innovativo, è quello che attraverso lo studio, i confronti, ho associato anche la proiezione di film. Quindi per ogni tema che noi andavamo ad analizzare, dal regolamento di Dublino, che è quella che costringe gli stati a mantenere sul loro territorio le persone e le difficoltà, le ambiguità di Dublino, ho associato un film, per esempio Io sono con la sposa, e ogni tema che toccavamo associavo un film, quindi è proprio dentro questo lavoro parlamentare, perché io ritengo che il cinema è un linguaggio universale e soprattutto ha la possibilità di condividere, cioè di rafforzare la cittadinanza, di andare oltre che a essere anche un'impresa, cioè la capacità di portare risorse economicamente anche a un paese se viene associata a delle politiche, quindi a una programmazione. È uno strumento straordinario, non viene sfruttato abbastanza, ma io l'ho utilizzato attraverso questo mio lavoro perché va oltre i muri. In un'epoca in cui vediamo la costruzione di muri in Ungheria e la costruzione di barriere, di paure, il cinema non ha questo. Il cinema è capace di andare oltre e di arrivare direttamente al cuore. Proprio è il messaggio giusto per far sapere che siamo tutti uguali, non cerca il colore della pelle, l'appartenenza a una religione. È un film, ti trasmette un messaggio, ti arriva al cuore come a tutte le persone. Tornando ai film finalisti, come dicevamo, uno dei tre è diretto da Jonas Carpignano, 31enne italo-americano che ha scelto l'Italia e in particolare la Calabria per vivere e lavorare. È uno dei giovani più promettenti del nostro nuovo cinema e ha girato già mesi fa un film sull'immigrazione che sembra aver previsto i fatti di cronaca. Ma lui dice: non ho previsto gli eventi, ho parlato di una realtà che conosco bene. Sì, vorrei dire di sì, perché sembra che sono, che ne so, molto... che conosco molto bene le situazioni e come, che prevedo il futuro, però in realtà non è così, perché questa per noi era la realtà da sempre. Cioè mio coinquilino Kudus, che è anche protagonista del film, è uno che è venuto in una barca così, e comunque noi eravamo sempre molto attenti a questa situazione. Cioè voglio dire, adesso sì, stanno parlando tutti quanti del fatto che ci sono questi sbarchi eccetera eccetera, però in realtà è una cosa che è iniziato anni fa. È da anni che noi sentiamo parlare di amici che non sono riusciti, le persone che sono rimaste là, quindi diciamo che io stavo sempre reagendo, cercare di lavorare nel presente, non pensavo mai al futuro. Tu sei italo-americano, sì. Però questo è un premio europeo, quindi alla fine un americano che riesce a cominciare a realizzarsi cinematograficamente in Europa, non è scontato? No, però diciamo che io, il mio amore per cinema è nato qua, cioè mio nonno era un regista italiano e stava sempre, cioè io, i miei primi esperienze su set stavano qua a Roma, quindi per me il cinema è sempre stato legato a questo paese. Il tuo film ha già avuto insomma una vetrina importante, le recensioni importantissime. Adesso su questo slancio di questo film su cosa stai lavorando? Adesso sto lavorando sempre a Gioia Tauro, cioè io ormai vivo là, c'ho la base lì e sto cercando di approfondire in quel mondo là. Cioè io adesso sto facendo un film che parla della comunità Rom e i rapporti che loro hanno con i immigrati africani. Diciamo che è un film che coinvolge alcuni personaggi che tu vedi anche in Mediterranea. Il premio Lux ti permette di far vedere il tuo film in un sacco di paesi, tra sottotitoli e traduzioni. Che effetto ti fa? Cioè, a me è cioè, tutta una sorpresa, nel senso che questo è un film che abbiamo fatto nel nostro giardino, cioè questa stavamo a casa nostra, 10 amici, e alla fine il fatto che verrà visto da tante persone è una cosa che mi emoziona tantissimo. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.